Thank you. Questo era Gin, dunque, da questo lavoro, il pianto della terra per quanto riguarda Eugen Vintras. Passiamo dunque a Teatro Satanico. Thank you. Questo era Teatro Satanico. L'album in questione era Le Noie. Un lavoro del 2020 per Lunus Davis. E ci siamo ascoltati la prima parte di D is for Droning. Intanto saluto Anna e Nicola Locci dalla Sardegna, Tabula Rasa, Rodrigo Passannante, Marco Milanesio, Anna qui a Roma. E ancora Laura, Moschita da Miramar, Tabula Rasa in quel di Cortina d'Ampezzo. Francesco Cornello in quel di Bergamo, Sasha Rovelli, Bellinzona della Luce Sia. Antichrist, Orlando Furioso, Antichrist di omicidio. Lasciamo Teatro Satanico di Davis Granziera, ma rimaniamo ancora in Italia con Ambasce, un progetto della Dissipazio, etichetta di Nicola Quiricone. L'ultima fatica si chiama Isola Santa, siamo sempre nell'ambito della sperimentazione tra Death Ambient e situazioni decisamente visionarie. Dietro c'è il nome di Alberto Picchi. Ci andiamo ad ascoltare da Isola Santa, Estasi. qui è premuto. Ed è premuto. Eccoci qua dunque, Radio Onda Rossa 87.9. Forse grazie alla genialità del professor Fefo abbiamo risolto il problema al mixer. E se mi senti dall'altra parte, si sente bene, quindi lo ringrazio ancora una volta. Si è portato la birra, sennò gliela pagavo io. I testini, il mixer è una serie di testini incredibilmente complessi e magari qualcuno involontariamente ha spinto. E comunque adesso sembrerebbe risolto la problematica. Allora, questa è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. E naturalmente abbiamo in onda prove tecniche di trasmissione. Ci siamo goduti fino ad ora ambasce. Questa è Isola Santa. Come effettivamente dice il buon Antichrist, ci ha ricordato anche Vivenza, ma addirittura tornando indietro nel tempo, al buon Luigi Russolo, perché è da Russolo che nasce il tutto. Bene, noi si va avanti. Passiamo da Ambasce a Eyeside On, progetto svizzero di Sasha Rovelli, fondatore della Lucesia, insieme a Nebojša Abasić. Li salutiamo, qualora siano all'ascolto. Abbiamo qui una sorta di compilation che porta il nome di A Personal Collection of Demons, dunque la personale collezione di demoni. Non sappiamo se poi il tutto è riferito alle sonorità. Intanto non si è rotto niente nel disco che andava avanti così, me ne ero dimenticato, mi sono spaventato. Il bello della diretta di prove tecniche di trasmissione, d'altronde si sa che i suoni sono un po' particolari da queste parti. Eyeside On, dunque, ci ascoltiamo Geometrie e Beyond Body Limits. Saluto a Issei Toal, il buon Nicola Locci. Eyeside On. io come farvi passare i vostri bollenti spiriti. Yeah. gli avvolgenti labirinti ipnotici creati da Sasha Rovelli, il suo progetto As I Down. Album vario, multiforme, questo è Personal Collection of Demons, una N tra parentesi, a giocare un po' coi demoni ma anche coi demos, probabilmente materiale estratto proprio dai primi demo di Sasha Rovelli, questo artista svizzero di Bellinzona. Sulle corde direi visionario di Brighter Death Now, tanto per citare un artista che può ricordare vagamente queste pulsazioni di As I Down. E vedete che sviluppi anche ritmici che sorprendentemente ci propina As I Down. Andiamo avanti, Roberto Fega, artista romano. Un album Echoes from the Planet tra sperimentazione IDM, glitches, ritmi disturbati. Un album dedicato al dramma dell'immigrazione, un album che si chiama Echoes from the Planet. E ci ascoltiamo le due tracce che lo vanno a concludere, ossia Extinctions e Echoes from Chiapas. We'll be right back.